Voce, voce di metallo. Puta intensa, pulsante. Io non ho mica posto un tempo oracolare. Alza, la mia preghiera. Figli, il cuore dei bambini non conosce sofferenza. Ritorniamo. I giochi sono finiti qui a Corinto. Sì, la coppia, il padre, la madre, la pioggia nera, le raffiche, i suoni squillanti, le apparizioni terrificanti e tutti i fenomeni non sono che illusioni. Sulla soglia di casa la madre piange e ride. Il cuore le ribolle dalla collera, un magma di ira e grida e rutta altissimo. Un cuore così gonfio, così implacabile, che cosa può fare, che cosa ci può fare, intumorato dal male? Ciechi di furore i suoi occhi non ci guardano. Ma noi lo vediamo. Ella ci odia, ella ci maledice. Maledice il frutto delle viscere sue. Rientriamo in casa, teniamoci in disparte. Da giorni la madre non prende cibo. Sta come rupoe o flutto marino, sorda a ogni consiglio. E ho paura. Abbiamo paura. Cuore violento il suo. Lo conosciamo e paventiamo. Madre da temere, quando ti potremo amare? Madre selvaggia così forte e un padre così debole che ci trascura, ci tradisce. Dopo aver tradito la sua donna e il giuramento delle nozze. Quanto dolore, quanto patire. Respinti dalla madre perché figli di nostro padre. Respinti dal padre perché figli di nostra madre. I nostri mali, i loro mali. Il male su tutto e tutti. Elas, la madre infuriata colpirà qualcuno. Ahimè! Ai noi, infelici di madre infelice. Orrore. Fratello mio, ci addosso, orrore, l'odore di fiera impazzita, la mano, la lama della spada, ohimè, siamo perduti. Colpo su colpo ci ha presi il vortice fecondo della sventura. In verità, tutto ciò non è che sogno, allucinazione, eco, come le città dei mangiatori di profumi, come un miraggio, come le forme in uno specchio, come una fantasmagoria, come la luna scorta in un lago, cose che non sono reali, neanche per un momento. In verità, questo è irreale. Questo è falso e illusorio. I giochi sono finiti qui a Corinto. Perché un dominio invisibile da diverso io terminale di un virus ignoto della sacca delle morfe madre sono tardi stati in della cosa intensiva abitata nel nostro multicervello. Medea, l'amore come morte al lavoro. Medea, lo sarò oltre questo giorno di eterno ritorno. Un giorno è breve, ma sarà anche troppo. Questo giorno vedrà quello che nessuno mai più tacerà. Aggredirò? Sì, aggredirò gli dèi, farò crollare il mondo, gli muoverò guerra, esprimerò le sacerdotette, infiatevi da Ecate, consumerò a caldo la vendetta, se no, meglio morire. Giasone, l'infame, il mio sposo, divenuto il più vile degli uomini, chiede di porre un limite all'odio. È lo stesso che posi all'amore infinito. Lui mi ha rovinata. La mia sola pace adesso è che tutto rovini con me. È bello divenire valanga mortale, travolgere gli altri nella propria inarrestabile caduta. Li annienterò. Li annienterò. Non posso farne a meno. Creonte, Glauce, il bel figlio di Esone, il bell'imbusto, di cui non so come un giorno follemente mi innamorai. Ero giovane. No, no, non è questo. Fu l'arte mia di maga che difendermi non seppe dal celeste complotto. I dardi d'Eros spietati mi trafissero. L'esordio d'una colpevole? Forse. Tante volte, vero, ho peccato. Mai per me. Giasone, lui lo sa. Laggiù nella Colchide palpitò il mio cuore per lo straniero. Le spalle aveva larghe, la muscolatura possente, la linea virile delle ombie e delle cosce era sensuale. Il volto bruno da Febo era stato modellato. Maledico la passione che mi perse dietro a quel seduttore senza passione. Desiderio, foia, libido, la magia bianca dell'amore si mescolò alla magia nera. Il sembiante lui aveva dell'eroe, ma solo quello. Io lo inventai eroe cedendo alla lussuria, delitto per delitto. Per amore. Per amore? Uccisi il rispetto, l'affetto per mio padre Eta, aiutando Giasone a vincere i tori sputafuoco del campo di Ares e i terribili giganti guerreschi germinati dai denti di drago. Per amore. Per amore. Uccisi il totem e tabù della terra Titania di Eea, assopendo il mostro del sacro bosco, lasciando che l'Esonide, senza colpo ferire, s'accaparrasse il vello d'oro, i meriti, gli onori. Per amore! Per amore uccisi l'amor di patria seguendo il greco in un esilio periglioso e incerto, mentre già gli argonautici compagni suoi mi chiamavano dietro le spalle barbara, puttana e strega. Per amore! Per amore! Uccisi legami di sangue con mio fratello Sirto, che nottetempo fece cadere in trappola in quell'isola delle isole Ebrigio ad Artemide consacrata. Impassibile restai quando a scannarlo venne lo sposo mio promesso, che poi tagliò l'estremità del cadavere, leccò tre volte il sangue, tre volte ancora sputò, come vuole il rito, la macchia del sacrilegio. Per amore. Per amore? Uccisi la buona fede delle mammalucche, figlie di Pelia, che a lacerare convinsi a sobbollire le membra del vecchio padre, illudendole di così renderlo di nuovo giovane. Inganno. e solo valse a placare la giasonica voglia impotente di vendetta contro l'usurpatore suo zio. Per amore. Ucciderei ancora tutti i colchi e mettici pure il loro capoeta e aggiungi gli sciiti e pelasgi. E magici poteri tremendi li scaglierei a distruggere quant'altri si mettessero contro di noi. Ma lui non l'ha capito. Non l'ha voluto capire. Lui, indegno di un amore senza limiti, indegno di essere da me, dea, amato. Può nascere un grande amore. A me è accaduto l'inverso. Abominevole Giasone, i figli tuoi, io li sterminerò. Avresti pure dovuto sapere di che cosa io non sono capace. No, mio odiato, tu non sei Teseo, come io non sono Arianna, nasso abbandonata. No, mio odiato, tu non sei Teseo, come io non sono Arianna, nasso abbandonata. No, mio odiato, tu non sei Teseo, come io non sono Arianna, nasso abbandonata. Compiuto che sarà questo fatale giorno, mediterò sulla chiara luce. Finalmente richiuderò la porta della matrice del penoso ritorno eterno. Ecco, tutte le sostanze sono del mio stesso spirito, e questo spirito è eterno. Non nato, senza fine. Coro. Agnizione delle deità, bevitrici di sangue. Nobile figlia, da zona est del tuo cervello venne a brillare a Biancadea, da testa di tigri, con un femore pieno di sangue in mano. Da zona sud venne a gialla dea da testa di scrofa, che porta un lazzo che scicce e soffoca. Da zona ovest venne a rossa dea da testa di leonessa, che porta pesanti catene di ferro. Da zona nord venne a verde dea da testa di serpente, che porta una campana che suona morto. Figlia, dall'est venne a dea mistica nera da testa di cuculo, tenendo in mano un minaccioso uncino. Da sud venne a dea mistica gialla da testa di capra, che porta un nodo assassino. Dall'ovest venne a dea mistica russa da testa di leone, che strascina i ceppi tintinnanti. Da nord venne a dea mistica Olvascia da testa di drago, che batte un gong. l'ultima ora. Gong, gong, gong, gong, gong, gong. Sono le deità bevitrici di sangue che di poi verranno a brillare su di te. Se le riconoscerai come irradiazioni del tuo cervello stesso, ti fonderai all'istante nel corpo loro e otterrai lo status infinito di salvata. Sappi, visioni spaventose e terrifiche ti appariranno. Sono le tue stesse forme pensiero. Riconoscile, non fuggire, o l'onda delle sofferenze di nuovo ti sommergerà. Se avrai paura delle deità bevitrici di sangue, resterai fascinata, atterrita e verrai meno. In illusorie apparenze si muteranno le tue forme pensiero. E tu ancora andrai errante nel giorno dell'eterno ritorno. Riconoscile. Riconosci. Tu, Dea, riconosciti. Giasone, nostos all'inferno, il miserabile destino dell'eroe di carta. Esecro, esecro, esecro! Che la morte ti colga, sozza omicida dei miei figli, autrice di infamie, vituperio delle genti, malnata, funesta, che da un paese barbaro, da una barbara casa, qui condussi in una casa di Grecia. Nonostante gli avvisi contrari e la sua fama di empia strige. Malefico demone, che fu mia sposa, insaziabile amante del mio atletico corpo. Eppure un tempo, questi due marmocchi, ora dissanguati e senza più anima, lei volle a tutti i costi sgravare. Io dico quanto sarebbe meglio che in altro modo gli uomini generassero figli e non ci fossero donne. Solo così non avrebbero guai. Cosa vuoi, grassatore, da me? Io ti volevo, tu m'hai tradita, tu marito è ingrato, eroe inventato, per cieco ardore, tu nel braciere, spento del cuore, hai deposto di sentimento, è una coltre di ghiaccio. Sono i miei amici, i compagni argonauti? Dove sono i Dioscuri, Castore, Polluce, Orfeo, Asterione, Ificlo, Polifemo? Dove sono Menezio, Ileo, Anfidamante, Nauplia, Augia, Anceo? Dove sono il fortissimo Bute, il valoroso Falero, il velocissimo Eufemo e i figli di Boria, Zeta, Calais e il posidonico Neleo? Dov'è Tifi, il migliore dei piloti? Dov'è l'indovino Itmone, che indovinò la misfortuna sua mortale nella terra di Relico? Dove sono Mopso e Canto, la cui polvere d'uomo si confonde con le crudeli sabbie di Libia? Dove sono tutti gli altri eroi ardimentosi che con me si strinsero ad affrontare mille bufere marine sulle scricchiolanti assi di Argo? La nave dei sogni. Cosa vuoi, ingannatore principe, da me? Io ti volevo, tu m'hai tradita, tu marito mio nemico. Cieco ardore, tu nel braciere spento del cuore hai deposto di sentimento, e una coltre di ghiaccio, e una coltre di ghiaccio, e una coltre di ghiaccio. Amici, amici, non saremmo mai dovuti ritornare. L'aureo vello volentieri avrei tralasciato, se solo avessi sospettato quanto m'avrebbe portato male, quante pene e disgrazie avrebbe con sé recato il nostos dell'eroe. Ritorno all'inferno, altro che lieto fine. Il dovere dell'eroe, una trappola, da cui sono uscito mercé le magherie, pagate a caro prezzo d'una selvaggia, lo spirito più atro, scellerato che conobbi. Esecro! Esecro questo destino che m'ha voluto a tutti i costi eroe, ad uso e consumo degli imbrattatori di carte, delle anime di inchiostro, poeti, scribi, che senza rischio sovra i nostri dolori speculano e si fan belli agli occhi del colto, dell'inclita pubblico ignavo. L'eroe di carte, in carne e ossa, piange i figli che solo adesso, straziati dalla madre più feroce, sono divenuti veramente miei. Cosa vuoi? Sempre straniero e di nuovo estraneo da me. Io ti volevo, tu m'hai tradita, tu marito e miserabile. Ero inventato per cieco ardore, tu nel braciere spento del mio cuore hai deposto di sentimento. È una coltre di ghiaccio, è una coltre di ghiaccio, una coltre di ghiaccio. Esecro, esecro! Troppo semplicemente umano. Giasone i disegni divini non li ha mai capiti. Né ho potuto con gli amici restare, proseguire di mare in mare, di avventura in avventura, il viaggio dell'Argonauta, un dì poi Eternauta. Né mi è stato lecito disfarmi della complice, rifarmi una famiglia, avere una vita tranquilla. La luce ossidrica della vampa che brucia il palazzo del re di Corinto obliquamente illumina la mia tiruta faccia. Che cosa posso contro la follia, i trucchi d'una messaggera dell'inferno? Il fato non mi dà scampo. Pago ogni colpa, anche quelle che non ho. Oh, padre, Zeus, abbi pietà di noi. mio duro orgoglio. Sono qui di nuovo, in questo giorno, tornata sulla scena del delitto. Non mi fermerò, non mi fermeranno, nessuno mi fermerà. Ancora non liberata, rinasce in me la trabile di vendetta contro l'impunito maschio che tradì il letto maritale e con un'altra compagna di letto si accoppiò. Schiuma come fiele, il sangue malmostoso nelle vene. Son qui di nuovo a crearmi un cuore malvagio. Io sono della stirpe del sole che ben chiara si riconosceva dal lampo degli occhi che giungeva lontano e brillava come la luce dell'oro. Elementi accecava, sconvolgeva, secondo faceva la maga Circe. Lei che giustamente ebbe a condannare la mia fuga col tessalo mediocre, spergiuro, rovina famiglie. Scosta di nutrice, anche te qui ritrovo. Oh, infelice, tremenda madre, orrendo è ciò che tu mediti. Sì, la tua casa è annientata ormai, ma i figli perché li odi? Hanno colpa della colpa del padre? I tuoi lugubri mortiferi affanni vorrei placare con l'aiuto delle muse e col concerto di canti e risonanti corde. Quali neri propositi covi in seno? Ti vorrei giovare, ma io dubito. Le leggi comuni degli uomini voglio difendere e impetrare. Tu sei la più infelice delle donne, ma io ti scongiuro, ti scongiuro. Nutrice, cosa vuoi? Che gliela faccia passare liscia all'empio Giasone? No, mai! Non fiume in piena, non mare in tempesta, né impeto di fuoco dal vento alimentato potrebbe bloccare il corso della mia furia. Metterò sotto sopra cielo, terra, nel mio duro orgoglio. Devo avere coraggio, lo so. D'altronde, che alternativa? Divenire oggetto di risa, di scherno, da parte dei miei nemici. Il cuore malvagio mi si è stretto in petto. Prego il popolo del silenzio e le deità oltre tombali e il cieco caos e la buia dimora del signore delle tenebre, gli antri di Thanatos ai confini del Tartaro. Lasciate, ombre dell'Ade, i vostri supplizi e accorrete alle nuove nozze. Una benda cinge i miei riccioli sciolti. Per voi scuoto un ramo funesto proveniente dall'acqua dello Stige. Per voi, col nudo petto lattiburroso come una menade, mi ferirò le braccia con il pugnale sacro. Coli il mio sangue sull'altare. Devi abituarti. versare sangue che t'è caro. Eccomi colpita. Verso copioso il liquido esecrato. Acide su fumigi si levano dai crateri del maleficio. Teurgia letale. Ecco i doni per Glauce, la corona, il pepilo, l'insupero nell'atroplasma. Nel fulvo oro è ora in agguato la minaccia segreta, il presente di chi espia, il ratto fatto al cielo coi visceri che sempre rinascono, e mi ha insegnato l'arte di occultarne la potenza, Prometeo. Qui ho il calore che innervava la testa di mezzo della chimera, qui ho l'essenza tratta dalla fiamma ispirante gola del toro, qui li mescolo al veleno di Medusa ben stimolato dai succhi cancerosi di Ecate. Mescola, mescola, mescola, imbevi, imbevi, imbevi. Ecco, i miei voti sono esauditi. Tre volte Ecate ha fatto udire gli audaci latrati. La fattura è pronta, la scintilla rifluita, il nero rito compiuto. Ancora una volta, con parole d'armistizio, convincerò Giasone a convincere la sua futura sposa ad accettare i miei nuziali doni. Doni di cuore, cuore malvagio. Ancora una volta spedirò i figlietti a recare alla giovane regina Corinzia tali regali. Ancora una volta quella stupidella dinanzi allo specchio fa boccuccia, si pavoneggia. Poi d'un subito dalla bocca le vengono su fiotti di bianca spuma, le pupille le si stravolgono, il suo corpo diventa sangue. Urla, grida di dolore ed è tutta fuoco, fugge, scuote i capelli, agita il capo per levarsi la corona. Invano, e brucia viva. Se colei Creonte, il re, il vecchio, che voleva cacciarmi in un perpetuo esilio. Questi uomini greci prima o poi pagano la loro debolezza d'essere. Essere per la morte, cuore dell'anima mia. Il tempo si riannoda dall'oscurità alla luce, la mia stessa anima è il lume di quest'ultima solitudine. Essere per la morte forte nell'anima mia. Benvenuto sia il tuo arrivo. Questa è la felicità. Felicità di poeta, di folle, conoscitore di te stesso, carnefice di te stesso. Thank you. stanca di questo giorno, malata di luce, già scivolo giù verso l'ombra e la sera. Ma prima bisogna che le rinne mi conducano al luogo dove devo andare, del più grande misfatto. Figli, venite, miei figli. Questa è una tragedia familiare. È una tragedia cosmica. Quanti affanni sofferti per voi. Acute doglie a partorirvi mi squassarono il fianco. Quante speranze infelice in voi avevo riposte. Ora la speranza è definitivamente. Senza di voi, gramo e penoso mi sarà il futuro. Ma coi cari occhi vostri più non vedrete la madre. Per altri lidi, altrove, sarete partiti. E l'ultimo vostro sorriso, questo. Basta con questa mollezza di parole. Forza, accenditi, armati mio cuore, odio arroventami, furie spingetemi, sciagurata mano prendi la spada, snuda la spada, alza la spada, sì, tu li ucciderai i figli, figli di Giasone, colpisci, colpisci, colpisci, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte, morte. Sul carro di Elio, per ricominciare il giro di ritorno eterno all'appuntamento con questo fato perverso, non salirò stavolta. È tempo di liberarsi di ogni attaccamento, di abbandonare ogni desiderio d'amore o di vendetta. Indiarsi in questo iddio carnefice. Lacerare iddio nell'essere. O devo rotolarmi come una cagna davanti a te. Thank you. d'oro. Il vuoto non può ferire il vuoto. Nobile figlia, concentrati. Se sarai distratta, tanti eoni di tempo ci vorranno per nascere da sta cloaca di dolori. Tremando cercherai di dire menzogne. Ho commesso nessuna cattiva azione. Ma un signore da morte guarderà un specchio dove ogni atto buono o cattivo è chiaramente riflesso. A menzogna non ti servirà a niente. Nobile figlia, il tuo corpo è un corpo mentale, seppure decapitato e squartato, è incapace di morire. Il tuo corpo della natura del vuoto non hai bisogno di spaurare. Il signore della morte altro non sono che tue allucinazioni. Il tuo corpo di desiderio è un corpo di inclinazioni e di vuoto. Il vuoto non può ferire il vuoto. Ciò che è senza qualità non può ferire ciò che è senza qualità. Nulla in vero esiste al di fuori di te stessa. Concentrati, prega, medita, agisci in te. Fai in modo che tu riconosca ciò. Questo vuoto non è della natura del vuoto del nulla. Questo vuoto non è della natura del vuoto del nulla. Con intensità vibrante, nobile figlia, lo stato in cui tu siete fa capire, o vuoto a chiarità, che sono inseparabili. O vuoto chiaro per natura e a chiarità per natura vuota. A coppia indivisibile. E o deserto te cresce. Non nascondere. Nesci da sto giorno, nesci do cielo, nesci do tempo. Riconosci un morso che sta d'incia di tia. Lasciati assorbire nella tua deità. Farà una luce, una luce, una luce, una luce, una luce. Per sempre. Medea, al di là dell'ingannevole ponte di parole, tra falsi cieli, tra false terre, errando, vagando come una belva moralista che fiuta, ruggisce parole di vittoria nella morte, selvaggia amante, selvaggia sposa, selvaggia madre, divinamente beffarda, divinamente infernale, divinamente bramosa di sangue. Corri, o tu, astuta rapace menzognera, corri verso l'ultima magia, pari a quella di endopsichica potenza che piegò Talos, il bronzeo gigante guardiano dell'isola di Creta. Sulle gote, da ambo i lati, mi tirai i lembi del purpureo peplo, ritta sul ponte di Argo, con gli incantesimi propizi le chere mortali invocai, le cagne veloci dell'Ade, che s'aggirano per tutto l'etere e danno la caccia ai viventi. Tre volte le supplicai, tre volte le evocai con le fatture a conce, tre volte le pregai col fascio concentrato del malocchio, con occhi nemici ammaliai gli occhi dell'uomo di bronzo, digrignando contro. Gli mandai la bile più malefica, orribili, inaudite immagini, le visioni più spaventose, maligne incantatrici. Io! Da tremendo furore invasa! Il gigante sconvolto cadde nel nero abisso del suo vuoto, avvinghiato e soffocato dalle fantasime dei suoi recessi profondi. Impazzì per non sapere accogliere la sua pazzia. Restò barcollante sui piedi infaticabili, poi crollò senza forze con un immenso frastuono. Dal bianco, quando i dadi della nostra vita saranno gettati per l'ultima volta, i parenti di questo mondo non ci saranno di alcun aiuto. Soccorso rosso sangue e tutto ciò che ho avuto, che abbiamo ricevuto, nell'aria che si oscura, Corinto, fior di città malnata, si infila tra gli orli dell'abisso. L'amico del giorno del ritorno ad ogni passo occultamente falcia fasce di rose e di gigli finché affondano pallidi, non più risorti, nella notte dell'anima precipitano. Lo udì il pedagogo dire, dissimulando il mio d'affare, presso la sacra fonte di Pirene, laddove gli anziani sono soliti giocare ai dadi. Ho sentito che questi bambini, il re di questa terra, vuole scacciarli insieme con la madre. Pietre infinite saremo, lo siamo, rotolanti pietre per minime osi prima di arrestarsi in qualche punto estremo che le consacri, rotolanti pietre come dadi inseguiti dal folle presagio. Permettere che ora mi assalgano orrore e terrore. I giochi sono finiti. Della madre, gocce di silenzio cadono sul verde prato della nostra assenza. Fratello mio, lasciamo che le tenebre dell'ignoranza si dissolvano. In questo momento sento che ogni pensiero getta un ultimo colpo di dadi. Colpita la madre fiera, annusa la sacra vicinanza del suo fantasma, lasciala al suo gioco, mio fratello, mio gemello, diventiamo l'unico numero che non può più essere. Pazzo può ora accompagnarci nella terra di nessuno, dove non c'è alcuna rugiada d'amore che possa consolare. Assetata. Affamata. Schernita. In inseguita dalle perfide occhiate di un cielo cangiante, violentata dai colori corsari del tramonto accecante, costretta a vagare, strisciare, mentire. Non mentire. Le labbra lascive baciate dal corruttore d'anime, oltre non più vergini foreste, in ogni deserto ostile, frammenti di cuore malato, desideri, pensieri, dementi, più che maligni, m'assediano e mi masticano. I vostri strosi. Nel rimasticare loro è la mia vita, glaciale infedeltà, la fede più ardente, fibra a fibra, cellula a cellula, mi scombuio e mi sperdo in questi biforcati sentieri del giorno senza fine, entropia di preda. Nella gabbia encefalica della mia belva, straparlo la mia sera. Chi può qui essermi compagno? Solo un poeta. Riscaldami, o crudelissimo, e dammi anima e corpo mentale sufficienti ad affrontare l'attimo più decisivo, sì, abolire qualunque alterità, squassata da febbri ignote, tremante sotto gli aguzzini. Braccata da te, innominabile, mascherato, terrificante, cacciatore di nuvole, oltre i falsi arcobaleni nel subuglio del cuore. Martirio! Tormento! Pura agonia! Davanti al grande specchio, fulminata da te, occhio beffardo che mi scruta nell'ombra, entusiasta. Parla, o atroce, ladro di nubi, rabbioso cane bicefalo. Tu nascosto tra i lampi, parla, o sconosciuto, tutte le mie lacrime scorrono verso di te, mio dolore, mio dolo, mia ultima felicità. Dio riconosciuto. Non si deve prima odiarsi quando si vuole amarsi. Io sono il mio carnefice. Io il mio io, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio stremata, sollevata, non più rinata. Al di là dell'ingannevole ponte di parole, sono giunta nell'aria illuminata, sulla riva del superno atteggiamento azzurro, puro esilio. Da ogni verità, da ogni gravità, niente più affamate parole. Adesso la parola. Danzo leggera, la danza di chi possiede il sapere del grande simbolo, un vortice. Polarità maschile e femminile unite nel mio essere. Maturato nella fiamma del male. Me, Dea.